in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa che sapete è diventata internazionale, non solo europea, anche se le questioni europee continuano a interessarci moltissimo e ça va sans dire, per entrare in atmosfera aspettiamo tutti con una certa ansia o anche solo curiosità le politiche di domani che si terranno domani in Francia. Naturalmente Radio 24 vi aggiornerà e anche il Sole 24 Ore, il sito del Sole 24 Ore e quello di Radio 24 domani, e poi naturalmente lunedì quando ci sarà una certa sicurezza sul primo turno delle presidenziali francesi, e poi sicuramente noi settimana prossima ce ne occuperemo a nostra volta. Inizio però invece questa settimana da un articolo che è apparso sul sito di Spiegel, che è uno dei due principali magazine tedeschi di informazioni. Spiegel vuol dire specchio in tedesco. Il tema è quello della possibilità di creare una vera radiotelevisione pubblica europea. Mi permetto di dire non magari sul modello della RAI o comunque non i classici canali della RAI, perché poi in realtà ci sono canali della RAI secondo me bellissimi come RAI Storia, RAI 5 e tanti altri, ma o magari sul modello della BBC, cioè una televisione che sia molto autorevole, finanziata con soldi pubblici proprio per non correre il rischio che gli inserzionisti commerciali condizionino i palinsesti. In questo articolo Andrea Wilkensen e Jakob von Weizsäcker chiedono la creazione di un canale televisivo finanziato a livello pubblico e prodotto in e per l'Europa. La speranza è che questo progetto dia un importante contributo alla democrazia europea, scrivono i due giornalisti, perché sostengono, e credo che possiamo dargli ragione, che in tutti i paesi siamo intrappolati in quelli che loro chiamano filter bubble nazionali, cioè dei filtri e anche delle bolle a tenuta stagna nazionali. Le questioni europee non sono quasi mai trattate su un piano europeo, ma sempre con una prospettiva nazionale, connessi a un interesse particolare altrettanto nazionale. E questo conduce, secondo Spiegel, a una, cito testualmente, cassa di risonanza anti-illuministica che i populisti di destra usano a proprio vantaggio e che viene rafforzata dalla digitalizzazione e dagli effetti dei filtri. E credo che ci suoni molto familiare, perché di fake news si parla in tutto il mondo e anche in Italia. Restiamo in Germania però, e comunque restiamo sul tema dei rapporti tra i singoli paesi e Bruxelles, tra i singoli paesi dell'Unione Europea. L'articolo è apparso sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, che è forse il più autorevole, più serio o serioso quotidiano tedesco, e si intitola "È il momento di ripensare il rapporto coi politici italiani". Secondo la Frankfurter Allgemeine Zeitung, in un editoriale, l'egocentrismo italiano, che parte dalla proposta del candidato cancelliere della SPD Martin Schulz di aumentare i fondi tedeschi all'Unione Europea, sarebbe uno sbaglio, e la giustificazione addirittura prodotta da Schulz, ma che naturalmente troverebbe molte voci favorevoli in Italia, è che Berlino trae grandi vantaggi dall'essere parte dell'Unione Europea e quindi dovrebbe dare di più. Scrive la FAZ: ogni accenno ai vantaggi della Germania rafforza al momento i politici italiani nei loro giudizi antitedeschi, che non hanno alcun fondamento. La retorica antitedesca e antieuropea viene vista come portatrice di voti dai politici italiani, e qui si fa un elenco abbastanza ampio, da Matteo Renzi a Silvio Berlusconi, da Matteo Salvini a Beppe Grillo. Ciò che viene propagato da questi leader e dai loro sostenitori suona assurdo dalla prospettiva tedesca. Ad esempio che solo la Germania avrebbe beneficiato dell'euro e che la crescita italiana sarebbe stata ostacolata solo dall'austerity. È un giudizio molto poco generoso, e tra l'altro la FAZ dice che l'Italia sta scivolando verso una nuova crisi, perché il nostro debito pubblico continua a essere altissimo, e visto che i tassi di interesse dovrebbero essere rivisti a breve, le riforme economiche saranno ancora più difficili. E poi c'è l'incognita del voto anche sull'Italia, che sapete potrebbe essere il voto politico o entro il 2017 o nei primi mesi del 2018 a scadenza della legislatura. Restiamo ancora un attimo in Germania, perché invece la Süddeutsche Zeitung, un altro importante quotidiano tedesco, si è occupato delle piccole e medie imprese tedesche. Siccome la Germania e l'Italia sono i due principali paesi manifatturieri europei e tutti e due hanno una spina dorsale fatta da piccole e medie imprese, noi ancora più della Germania, che ha anche molti colossi, però la struttura è simile. Il quotidiano del sud della Germania ha dato spazio alle dichiarazioni del ministro per l'economia, Brigitte Tsipras, che ha chiesto nuovi finanziamenti e sgravi fiscali per un totale di 1 miliardo all'anno a favore di fondi per le start-up e società incubatrici per la copertura di spese di ricerca. È una richiesta rafforzata anche dal sottosegretario dell'economia Matthias Maschnig, che pur naturalmente, anzi felicitandosi del fatto che l'economia tedesca non smette di correre e continua a creare posti di lavoro, siamo ai massimi dal 2011, manca comunque l'innovazione. E in questo credo che ci sia un ulteriore parallelo con le piccole e medie imprese italiane, perché è chiaro che una multinazionale non solo riesce ad attrarre più magari ricercatori, ma ha un budget maggiore per la ricerca in percentuale e in assoluto. Per le piccole e medie imprese invece appunto questo potrebbe essere un problema. A proposito di elezioni francesi, l'unica cosa che vi posso citare, perché appunto i sondaggi, come abbiamo già detto sabato scorso, danno dei margini tra i candidati molto molto piccoli, e quindi davvero sarà una sorpresa l'esito di queste politiche. Però intanto Le Monde ha pubblicato un appello di Nobel in economia che si dichiarano apertamente contrari al programma politico e ma in parte anche economico della candidata Marine Le Pen, che quasi certamente dei 4 principali candidati andrà al secondo turno. Le Monde, naturalmente essendo un giornale di centro-sinistra, forse anche possiamo dire di sinistra, non può sostenere Marine Le Pen, che invece è una candidata il presidente del Front National, che è un partito di centrodestra. Ma qui si cerca appunto di non farne una questione puramente politica, dando voce a questi 25 premi Nobel, da cui Joseph Stiglitz e molti altri, che dicono in questo appello comune: la costruzione europea è un capitale non soltanto per mantenere la pace sul continente, ma anche per il progresso economico degli stati membri e per il loro potere nel mondo. E sempre su questioni economiche, e qui ci siamo di nuovo coinvolti, ancora su Le Monde è apparso un commento alla vicenda che vede opposta Vivendi a Mediaset. Il titolo: il gendarme italiano delle telecomunicazioni ammonisce Vivendi affinché riduca la sua partecipazione in Telecom Italia o in Mediaset. E Le Monde scrive: il gruppo francese, di cui Vincent Bolloré è il primo azionista, riflette su un'azione giudiziaria contro questa decisione. Ma in realtà Le Monde, che non ha particolari simpatie per Bolloré, sembrerebbe almeno, dice che questa è una sconfitta, una delle rare sconfitte appunto di questo uomo d'affari di origine bretone, che è sia finanziere che imprenditore. Parliamo ancora della Brexit, perché sapete che questa settimana a sorpresa sono state annunciate elezioni anticipate in Gran Bretagna. Il Parlamento ha approvato la richiesta della Premier Theresa May, quindi queste elezioni anticipate ci saranno. La motivazione principale è che Theresa May vuole una maggioranza più forte in Parlamento per poter avviare seriamente i negoziati sulla Brexit, e non vuole avere opposizione interna che mini o rallenti questo cammino. Ma Financial Times torna sulla Brexit e sottolinea ancora una volta che forse non saranno così tanti vantaggi per il Regno Unito, così come vogliono far credere quelli che ancora oggi, anzi molto più numerosi che in giugno, sostengono l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Se l'industria britannica non vuole perdere tempo e business in Unione Europea, non resta che affrettarsi a trasferirsi in uno dei 27 stati UE. Piaccia o non piaccia, in assenza di certezze sull'esito del negoziato di Brexit, è la soluzione migliore. Questo sostiene il Financial Times senza mezzi termini. E parla anche di un gelo amministrativo nelle relazioni tra l'Unione Europea e il Regno Unito, con l'obiettivo di chiudere sistematicamente i gruppi britannici dalla partecipazione ai contratti europei, e sono appalti non da poco. Vi segnalo infine, visto che comunque arriveranno le vacanze, adesso a parte questi ponti e siamo felici per chi è riuscito a farli, però poi insomma inizierà proprio l'estate anche da Internazionale. Vi segnalo un bellissimo reportage da Knack Weekend, che è una rivista belga: le Highlands a piedi, immersi nella natura scozzese, il Loch Ness, il lago nonché il presunto mostro, i fitti boschi carichi di muschio, e come ultima tappa Inverness, la capitale della regione. E davvero auguro a tutti di fare un viaggio vicino, lontano dei sogni o magari già programmato da tempo. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.